Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica con la stampa periodica, settimanali, mensili, italiani e stranieri. Cominciamo da un tema di cui si è parlato parecchio sulla stampa quotidiana e che quindi poi si è trasferito, come spesso accade, anche nei periodici. Vi voglio parlare delle slot machine o come sono più familiarmente chiamate talvolta, macchinette mangia soldi, il che già fa capire un po' qual è la loro vera natura. Cosa è successo? Che c'è stata una ricerca di cui riferisce Famiglia Cristiana questa settimana, fatta da AgiPro News, che è un'agenzia di stampa specializzata appunto nei giochi a pronostico e nelle scommesse. Tra gli altri numeri che sono emersi è che nella sola Milano ci sarebbero 16.000 di queste macchinette mangiasoldi o videopoker o come le volete chiamare. L'incasso medio per ognuna di queste macchinette è di almeno 100 euro al giorno, quindi una percentuale imponente, un incasso imponente. C'è quasi un allarme, così almeno definisce Famiglia Cristiana, l'articolo è di Fulvio Scaglione. L'allarme sulla passione per il gioco legale emerge in modo ricorrente, ma il quadro più aggiornato è stato di recente realizzato da AgiPro News. Da questa ricerca emerge che l'anno scorso, nel 2009, ogni italiano, ognuno di noi, ha speso in giochi in media 906 euro, il che vuol dire il 6% della nostra quota di reddito media, che è calcolata attorno ai 15.000 euro all'anno. Prendendo in considerazione gli ultimi 2 anni, che poi sono quelli della crisi, come ricorda Scaglioni, l'agenzia nota che i consumi sono calati, erano pari infatti a 15.400 euro nel 2007 i consumi, ma le spese per i giochi all'interno dei consumi sono invece cresciute. 2 anni fa si calcolava che ognuno di noi spendesse 713 euro mediamente per giochi e scommesse, siamo arrivati a 906 euro. Questa passione che abbiamo sviluppato per il gioco legale rende allo Stato il 13,5% del suo fatturato, consegna allo Stato il 13,5% del suo fatturato, quindi chiaramente c'è anche qualcuno molto contento che è l'erario, il quale vince sempre questa percentuale per tutte le puntate. Allora, da come siamo cambiati coi giochi a una novità che invece sta per arrivare, in realtà si tratta di un ritorno, tornerà il Grande Fratello anche quest'anno, da lunedì 18 però, quindi non per la prossima settimana ma la settimana successiva. Comincia a darci qualche indiscrezione su questo programma popolarissimo, Sorrisi e Canzoni TV, naturalmente nel senso che è il settimanale specializzato, è uno dei settimanali specializzati proprio sulla materia televisiva. Sorrisi e Canzoni, Cinzia Marongiu per la precisione, ha curiosato, ha avuto qualche indiscrezione su come sarà la casa, che poi come sappiamo è il cuore di questa trasmissione. Non ci sarà più la passerella, leggo proprio da Sorrisi e Canzoni, ma ci sarà invece una nuova porta rossa che si affaccia direttamente sull'arena. Poi la casa sarà completamente ripensata, costruita ex novo, la precedente era cresciuta a dismisura attraverso gli anni perché si era partiti con una casa di 325 metri quadri nella prima edizione e nella decima edizione si era arrivati a 1600 metri quadri. Questa casa è stata ora rasa al suolo. Questa residenza, che viene descritta come la residenza più spiata dagli italiani, è attualmente ancora un cantiere, però si sa che sarà una casa ancora più grande delle precedenti per questa edizione numero 11 del Grande Fratello. Ci saranno ambienti votati al bianco e alla luce, ci sarà anche una stanza dedicata al relax. Per i concorrenti si annuncia un cast in progress. Cosa vuol dire? Scrive la stessa Marongiu, alcuni concorrenti, si lavora ora su una rosa di 50, potranno anche essere scelti in momenti successivi all'ingresso dei primi reclusi. Tra i partecipanti anche un ex seminarista e si parla anche di un ragazzo asiatico. Naturalmente su Canale 5, come d'abitudine, da lunedì 18 ritorna quindi il Grande Fratello. La Lasciamo però la televisione perché vi vorrei parlare di cinema per celebrare un anniversario che Wired, come sapete un mensile dedicato appunto alle nuove tendenze, alle scoperte delle tecnologie, ha deciso di celebrare con un impegno notevole. Allora, l'anniversario è quello di Ritorno al Futuro. Il film Ritorno al Futuro uscì in Italia il 18 ottobre del 1985 e era il primo episodio, perché poi in realtà si trasformò in una saga, ci sono stati altri due episodi di Ritorno al Futuro. È stato un film culto nel senso che effettivamente ha lasciato profonda traccia e penso che molti di noi l'abbiano visto, magari qualcuno anche più volte. Che cosa ha deciso di fare Wired? Un quarto di secolo dopo, spiega nel numero in edicola, il produttore Steven Spielberg, il regista che era Robert Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale si sono trovati attorno a un tavolo per svelare tutti i segreti della trilogia che ha svezzato almeno tre generazioni geek, cioè di appassionati della tecnologia, e ha trasformato in un mito la DeLorean DMC-12. Era la macchina, l'automobile, l'automobile del tempo, con un gioco di parole, che veniva utilizzata appunto dai protagonisti, ed era quella macchina sportiva con questa apertura delle porte ad ala di gabbiano molto particolare, appunto impiegata per viaggiare nel tempo. Vi leggo, l'intervista è molto lunga e la ricostruzione anche delle varie curiosità, degli episodi eccetera, impegnano diverse pagine di Wired di questo mese. Io vi leggo solo qualche cosa qua e là. Ad esempio spiega Bob Gale come gli è venuta l'idea. Dice: stavo a St. Louis nel Missouri in visita dai miei, rovistando nella tavernetta ho trovato l'annuario del liceo di mio padre, così mi sono messo a sfogliarlo, ho scoperto che mio padre era stato il rappresentante di classe nell'anno del diploma. Io non l'avevo mai saputo e per di più il rappresentante della mia classe all'ultimo anno era uno con cui io non avevo niente a che fare. Considerate che ero a capo del comitato per l'abolizione degli organi di governo studenteschi. Allora mi sono chiesto, chissà, se io fossi andato a scuola con mio padre e io saremmo mai stati amici, e sono tornato a Los Angeles con questa idea in testa. Da questa idea iniziale di Bob Gale naturalmente scaturisce l'idea appunto di Ritorno al Futuro, in cui il protagonista torna e conosce in realtà padre e madre e si adopera perché appunto lui stesso possa esistere, cioè perché i due si possano poi incontrare. Un altro particolare viene rivelato poi in questa intervista a tre voci da Steven Spielberg, che dice: nella prima stesura la macchina del tempo che avevamo individuato non mi piaceva perché ricordava un po' una sorta di lavaggio auto. In realtà si trattava di un oggetto abbastanza grande e uno spazio chiuso, quindi in seguito abbiamo invece avuto l'idea di utilizzare un'automobile e così la macchina del tempo è diventata un meccanismo più mobile, un meccanismo non fisso come invece era prima. Tutto è a passo più facile, dice Spielberg, perché con quell'auto lì potevamo andare ovunque. Zemeckis, che è il regista, dice invece perché hanno scelto quella macchina. Dice perché ci permetteva di giocarci su. Quando approda nel passato, infatti, gli abitanti della fattoria scambiano questa stramba automobile, per i loro canoni dell'epoca, per una astronave aliena. E questa è sono diciamo alcune delle cose che troviamo a proposito di Ritorno al Futuro. Vi devo dire però che tutto questo sforzo ricostruttivo poi si accompagna a un'iniziativa che Wired lancia, cioè l'idea di costruire di attrezzare una macchina dello stesso tipo di quella appunto vista in Ritorno al Futuro, come auto completamente elettrica. E sul mensile appunto trovate anche tutta la spiegazione di tutte le tappe di questa costruzione, di questa conversione all'auto elettrica da parte appunto della redazione di Wired. Abbiamo forse ancora un minuto prima delle indicazioni sul traffico. Allora ci sono delle altre curiosità che si ricavano ancora da Ritorno al Futuro. Dice ad esempio Zemeckis che il capo della Universal, che fu poi la casa che decise di fare il film, si annotò tre cose sulla sceneggiatura: una, che non si poteva chiamare Doc il professore; la seconda, la mascotte di Doc, che nell'origine, nello script originale, era uno scimpanzé e non un cane. Diceva: devi eliminare quello scimpanzé perché nessuno verrà a vedere un film con uno scimpanzé. Tra l'altro precisa Bob Gale: mi sono documentato ed è vero che nessun film con uno scimpanzé ha mai mai incassato bene. E così, insomma, tra queste molte altre cose sul Ritorno al Futuro che potete trovare su Wired in edicola in questi giorni per il mese di ottobre. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi stavo parlando dell'iniziativa di Wired che ha deciso appunto di attrezzare un'auto completamente elettrica per celebrare in questo modo i 25 anni dall'uscita di Ritorno al Futuro. Quindi ha preso la stessa automobile di Ritorno al Futuro e l'attrezza come auto elettrica. Le auto elettriche sono un po' la moda, la tendenza del momento, ne parla infatti anche l'Economist tra gli altri, perché si cominciano a vedere i primi esempi di macchine, di vetture elettriche destinate al mercato di massa, ed è quello che appunto viene scritto sull'Economist di questa settimana. Si dice le prime auto elettriche destinate al mass market, al mercato, al grande mercato, stanno arrivando nei saloni e rappresentano una grossa scommessa per i costruttori di auto. Nell'articolo, che contiene anche tutta una serie di indicazioni e di debutti previsti per le varie case automobilistiche in questo settore, si fanno anche dei confronti sulla capacità di, sull'autonomia dichiarata dalle varie, dai vari tipi, e qual è poi il prezzo calcolato però in sterline, non in euro. Vi leggo qualche passaggio da questa corrispondenza, che naturalmente viene dal Salone di Parigi, e si spiega che appunto sia in America che in Europa che in Giappone stanno via via debuttando i primi modelli di massa. Arrivano in tre tipi, così spiegano su Economist. Il primo è quello dei veicoli elettrici puri, che possono essere condotti per 150 km o qualcosa di più, perché poi hanno bisogno appunto di essere ricaricati. Poi c'è invece il modello che utilizza sia la spinta elettrica, sia quella di un motore a scoppio, e poi gli ibridi, fatti come la più nota, la già commercializzata da tempo, Toyota Prius. E secondo Carlos Ghosn, che è il capo della Renault Nissan, nel 2020 almeno una su 10 delle nuove macchine vendute in Europa saranno auto elettriche. Anche per le macchine cosiddette ibride, cioè che associano motore a scoppio e motore elettrico, ci sarà più o meno una simile quota di mercato. Anche i governi, scrive sempre l'Economist, stanno fermamente credendo in questo nuovo tipo di veicoli, naturalmente per motivi ambientali, per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Ci sono però delle avvertenze che lo stesso Economist ricorda. Ad esempio, se acquisteremo questo tipo di auto, dovremo cominciare a pensare, specialmente con quelle appunto elettriche pure, che c'è una ansia da ricarica, così viene chiamata, nel senso che non siamo così abituati a pensare che avremo bisogno di ritornare a casa, di tornare accanto a una presa di corrente per fermarci a ricaricare, a far ricaricare la macchina, ed è quello che però succede con le auto puramente elettriche. Hanno fatto però dei test che dimostrano come abbiamo la percezione che questa autonomia di ad esempio 100, 150, 160 km sia di più di quello che possiamo pensare, perché ad esempio un test condotti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti hanno mostrato che all'interno dei 150 km ci sta buona parte degli spostamenti non solo quotidiani ma anche magari settimanali di molti guidatori. Quindi in realtà questi, che sembrano abituati naturalmente a ragionare con il carburante più tradizionale, con la nafta o con la benzina, pochi chilometri, poi si rivelano nelle nostre medie di percorrenza un chilometraggio più che sufficiente per coprire le distanze abituali casa-lavoro, lavoro-casa. E una volta tornati a casa, spesso, o magari anche dal lavoro, ci si dedica, perché no, a scaricare dei file musicali o dei file di film, dei file di video. Su Wired, torniamo un attimo su Wired, hanno provato a mettere in fila un po' di numeri su quanta roba scarichiamo effettivamente nei computer. Ad esempio, ci sono attualmente disponibili su iTunes circa 11 milioni di canzoni. Se mettessimo in testa di ascoltarle tutte, ci vorrebbero giorno e notte senza interruzioni 73 anni e mezzo per sentire tutto il catalogo, quindi un tempo decisamente notevole. Ci sono tra i paesi che scaricano di più la Spagna in testa alla classifica, è quello più attivo nel cosiddetto peer-to-peer. Napster, che è l'antenato di tutti i sistemi di scambio file, nel suo momento di massimo splendore aveva circa 25 milioni di canzoni ed erano condivise da 40-70 milioni di utenti. E poi ci sono i film più scaricati illegalmente, c'è una classifica. Nel 2009 il film più scaricato, più downloadato, come qualche volta si dice con un neologismo, è stato Star Trek, si calcolano 10 milioni, quasi 11 milioni di download, poi Transformers e poi via via altri film. Twilight si piazza al quinto posto in questa particolare classifica, che trovate, vi ripeto, su Wired in edicola questo mese. Visto che abbiamo affrontato il tema della rete e dei download, c'è un articolo sull'Espresso di Alessandro Longo che riprende un po' anche un'inchiesta che abbiamo portato avanti con contributi anche di esterni, di esperti esterni, sul Sole 24 Ore. Un web di bufale, il titolo dell'articolo di Alessandro Longo sull'Espresso di questa settimana. Il dibattito che abbiamo condotto sul Sole 24 Ore si chiamava www.verità. Di cosa si parla? Si parla della difficoltà di affermare, diciamo, delle cose reali, le cose vere, verificate su internet, perché molto esposte alle bufale, come le chiama sbrigativamente Alessandro Longo. E Alessandro Longo poi si mette anche un po' a citare alcune di queste dicerie da rete che fanno il giro del mondo e sulle quali tutti sono pronti a giurarvi che è assolutamente vero. Ad esempio, circolerebbe una nuova droga che viene somministrata di nascosto, cosparsa sui biglietti da visita, verrebbe usata dai rapinatori per appunto stordire le vittime e poterle così derubare. È capitato naturalmente al tale che è parente del tal'altro, eccetera, come sempre succede in queste leggende metropolitane. Naturalmente un'altra leggenda molto popolare sul web è la fine del mondo, sappiamo che è fissata per il 2012 secondo i Maya, oppure qualcuno dice nel 2013. Sono tutte bufale, ovviamente, precisa Alessandro Longo, sono storie fasulle diffuse, spesso anche partorite su internet. Ne circolano da sempre, ma negli ultimi tempi c'è un boom. Perché? Perché a causa dei social network vengono riprese bufale già smentite da anni, come se fossero appena sbocciate, e ritornano così in auge. Ci sono anche dei siti in realtà che si occupano di smentire queste dicerie, non so, tra le altre appunto che sarebbero stati gli stessi americani a organizzare l'attacco alle Torri Gemelle, o che Michael Jackson non è mai morto, sono alcune di queste bufale più ricorrenti sul web. Hanno poi dei motivi che vengono spiegati da Longo, anche inconsci, anche profondi, appunto il bisogno di accedere a informazioni che si vorrebbero invece riservate, quindi poter godere di questo privilegio. Ma vi rimando all'Espresso per la lettura completa del lavoro di Alessandro Longo. Magazine 24 vi dà appuntamento a domani mattina sempre alla stessa ora. Io ringrazio Filippo Aureggi questa mattina in regia, grazie anche ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani.